Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona giornata da Katia Caramelli. I separati e i divorziati cattolici sono dentro la Chiesa, il Papa è loro vicino e le diocesi devono attrezzarsi per realizzare adeguate iniziative di accoglienza. Così Benedetto XVI, durante il 7° incontro mondiale delle famiglie a Milano, ha affrontato una questione complessa e dolorosa, senza però aperture dottrinali per quanto riguarda l'accesso alla comunione. Ernesto Emanuele ha fondato l'associazione Famiglie Separate Cristiane. Lui è stato molto accogliente, molto accogliente, ha calcato molto sull'accoglienza. Lui, ecco, ha ribadito che deve essere in tutte le diocesi, cosa che non è, ma dico, nella familiare consorzio dell'81 si dicevano queste cose, ancora nelle diocesi siamo in ritardo. Quello che ha calcato è che bisogna che le diocesi si attrezzino, cosa che non è. Fanno molto poco per i separati. I separati in Italia dal 75 sono 4 milioni e rotti. Che cosa è stato fatto per queste persone? Pochissimo. Non ci sono state naturalmente aperture sul fronte dottrinale. Lui è stato molto chiaro su questo qua, non ha detto neanche nessuna frase di la Chiesa sta studiando, come ha detto ad Aosta. Il problema dei separati è sempre limitato al problema della non comunione, mentre il problema dei separati è l'accoglienza, è il fatto che queste persone non vengono accolte, sono messe un po' al margine della Chiesa in moltissime diocesi, non in tutte, in moltissime diocesi. La sua associazione è nata circa 20 anni fa, con quale scopo appunto? Con quello dell'accoglienza? Accogliere come Cristo ha accolto la Samaritana che aveva 5 mariti, eccetera, eccetera, insomma, di accogliere tutti, accogliere chi ha tradito, chi è stato tradito, chi ha lasciato e chi è stato lasciato. Voi cosa proponete concretamente a chi si accosta alla vostra associazione? Di cominciare un rapporto con il Signore. Nel momento della separazione qualsiasi persona mette in discussione la propria vita e questo sarebbe il momento in cui possiamo essere vicino, perché veramente se vogliamo parlare di Cristo con l'amore, in questo momento possiamo farlo, perché in questo momento le persone sono estremamente disponibili ad ascoltare qualsiasi proposta di fede. In questo momento potremmo essere accanto a queste persone. Noi diciamo col Vangelo del grembiule, Don Todino Bello diceva che la Chiesa deve essere la Chiesa del grembiule. Il grembiule è l'unico paramento sacro che ha messo Gesù quando ha lavato i piedi agli apostoli. No, io sono vicino a te, sono disponibile ad ascoltarti per 1 ora, 2 ore, 3 ore. Questa è l'opinione del vaticanista Marco Tosatti. Di apertura non so se parlerei, nel senso il problema è questo. Sicuramente lui ha una grande attenzione da sempre a questo problema, tant'è vero che a un certo punto lui aveva proposto addirittura un digiuno eucaristico, cioè quelli che normalmente possono fare la comunione non lo facciano una volta, in solidarietà verso le persone, cristiani, cattolici, divorziati e risposati, che di conseguenza non possono fare la comunione. C'è un problema grande però su questo punto che diciamo così è veramente obbligante per la Chiesa, cioè che è una delle poche cose su cui Gesù ha parlato nel Vangelo con molta chiarezza, molta forza e in maniera che impegna. Io credo che realmente Benedetto XVI e anche altri all'interno della Chiesa vorrebbero poter avere un tipo di atteggiamento anche dottrinale più comprensivo verso tutta la diversità delle situazioni che rientrano in questa casistica, ma si rendono conto che da un punto di vista proprio di test evangelico non ci sono molte scappatoie. Ora c'è Don Willy Volonté. Nell'ottobre 1949, quando Mao Zedong divenne capo indiscusso della Cina, i cattolici cinesi erano solo 3 milioni e mezzo. Poi iniziarono 37 anni di persecuzione violenta, culminata con la rivoluzione culturale, e in Cina non esisteva più una chiesa aperta e i vescovi e i preti erano imprigionati a centinaia. Ora la chiesa in Cina vive sotto un governo comunista, ma con un regime economico liberista, anche se sotto lo stretto controllo del partito, specialmente in campo religioso. il PIL aumenta dell'8-9% l'anno e la Cina vanta il secondo posto come potenza economica mondiale. In quanto a diritti civili e rispetto della persona, vanta invece uno degli ultimi posti. Per quanto riguarda la Chiesa, il governo comunista ha pensato di istituire in contrapposizione alla Chiesa cattolica una Chiesa cosiddetta patriottica, sotto lo stretto controllo del governo e in forte opposizione al Papa attraverso ordinazioni illecite di vescovi, perché prive del mandato pontificio. L'intento dichiarato è quello di dividere la Chiesa cattolica al suo interno. Per oggi i cristiani in Cina sono circa 40-50 milioni e i cattolici dai 13 ai 15 milioni, ben 10 milioni in più dai tempi di Mao Zedong. Padre Angelo Lazzarotto, missionario del PIM e per anni attivo a Hong Kong, è uno dei maggiori esperti del mondo cinese e recentemente ha scritto un volume circa il futuro che si sta aprendo per la Chiesa cattolica in Cina. La vittoria non sarà frutto di strategie politiche e organizzative, anche perché il governo comunista è lì per impedirle o sopprimerle. La vittoria si chiama semplicemente testimonianza di fede. Aveva ragione Papa Paolo VI quando scrisse che oggi il mondo crede di più ai testimoni che ai maestri, e se crede ai secondi è solo perché sono dei testimoni di una fede vissuta.